leggera, bianca. Oh, tu stanca, visitatrice mai stanca di cadere, leggera trina, ghiacciata brina sul capo. O tu vecchia bambina che discorri in silenzio, che fili fole che gelano le punte dei gerani, fiumi che mettono ghiaccioli alle code delle cutrettole, alle pupille dei bianchi cigni, tu che lieviti il pane, che allevi tanti piccoli, ometti irti interrogativi, che allevi dai clamori, zitta, silenziosa, mia parvente, parente della luna, splendida spegnitrice di fuochi. Tu che non hai piedi, non hai vesti, tu che zittisci, accendi, muti, risplendi, sbigottisci, raglieti. Neve ti chiami, ma bene, levità dovrebbero chiamarti, candidezza, nitore, gratuità, grazia e dolore, bianchissima disgrazia, strega con le gambe di vetro, padrona dell'inverno, e stamani prodigo, prodigio e funerale di passerotti.